La storia e la memoria di Dino Pesole. Le testimonianze orali sono un patrimonio fondamentale della storia del nostro Novecento. Lo sono in particolare se riguardano la memoria storica della Grande Guerra. Proprio nell'anno in cui si rievocano i 100 anni dall'esplodere del primo conflitto mondiale, un libro fresco di stampa pubblicato da Donzelli dal titolo Voci della Vittoria, la memoria storica della Grande Guerra, ci offre ora la possibilità di ascoltare e commentare alcune delle voci, delle testimonianze orali dei protagonisti dell'epoca. Lo facciamo oggi e la prossima settimana in due puntate dedicate proprio alle voci della Grande Guerra. Lo facciamo in compagnia di due autori, Piero Cavallari e Antonella Fischetti, che lavorano entrambi all'Istituto dei Beni Sonori e Audiovisivi. La prefazione del libro, lo ricordiamo, è scritta dal direttore dell'Istituto Massimo Pistacchi. Buonasera e benvenuti. Buonasera. La Grande Guerra è stato il primo conflitto del nostro paese di cui si conservi una memoria sonora. Fin da subito si avvertì l'esigenza di salvaguardare il ricordo della tragedia appena vissuta attraverso il marmo dei monumenti o la carta e l'inchiostro delle memorie dei soldati. Ci fu però chi ebbe l'idea di affidare alla voce, a cui è legata così intimamente l'identità di ciascuno di noi, e alla parola dei protagonisti, il compito di preservare e tramandare quella vittoria tanto discussa. Tra il 1924 e il 1925, Rodolfo De Angelis, eclettica figura di artista, pensò di raccogliere le voci di coloro che avevano svolto un ruolo di primo piano nella guerra, invitandoli a declamare i propri celebri discorsi. Sarà questa discoteca, la raccolta La Parola dei Grandi, a costituire il nucleo della discoteca di Stato, che verrà istituita nel 1928. Oltre a offrirci l'affresco di un'epoca e il modo in cui venne allora metabolizzata la guerra, la raccolta si presenta come una galleria di autoritratti sonori, nei quali alcuni dei personaggi che hanno fatto la nostra storia riflettono su se stessi e, scegliendo una particolare sfumatura, adottando un determinato accento, marcando una parola più di un'altra, di se stessi e delle proprie imprese, tratteggiano il quadro che ritengono il più adeguato da lasciare in eredità agli italiani che verranno. Bene, vorrei che ascoltassimo insieme il primo documento sonoro contenuto, come gli altri, nel CD che è allegato al libro. Quella che stiamo per ascoltare è la voce del generale Luigi Cadorna. L'ordine del giorno alle truppe del 7 novembre del 1917, nel drammatico momento della disfatta di Caporetto. Ovviamente la qualità dell'audio ripropone la sua dimensione storica, cioè è un audio del 17, appunto. Ascoltiamolo. Ordine del giorno all'esercito del 7 novembre 1917. Con indicibile dolore, per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione, abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Ma questa non è ora di rimpianti, è ora di dovere, di sacrificio, di azione. Nulla è perduto se lo spirito della riscossa è pronto e la volontà non piega. Allora, Piero Cavallari, qual è il valore storico e documentale di questa testimonianza così importante, drammatica poi, direi? Intanto una piccolissima premessa sull'aspetto tecnico, prendendo spunto da quello che lei diceva sull'ascolto non perfetto qualitativamente, come siamo oggi abituati ad ascoltare appunto il sonoro, l'audio. Teniamo conto che nel 24, quando è stato registrato questo disco, non c'era ancora l'ausilio dell'elettricità, avveniva tutto meccanicamente, certo, acusticamente, quindi anche la standardizzazione dei dischi, che poi sarà quella dei classico 78 giri, non era ancora così perfetta come appunto lo sarà di lì a poco, quando l'energia elettrica aiuterà questa metodologia. E quindi l'aspetto storico, comunque anche avventuroso, che si porta dietro con questo ascolto un pochino difficoltoso, è giusto che rimanga del tutto intatto. Si potevano pure pulire. Degli interventi, certo, che avrebbero però tolto del tutto questa polvere storica, che invece è giusto che ci sia, perché in quel momento era ancora molto avventuroso andare a registrare. Quando Rodolfo De Angelis andò a trovare queste personalità di altissimo, insomma, livello, o con le sue macchine non così leggere, e in effetti c'è tutto questo aspetto che va tenuto ben presente. Ma entrando nel contenuto del documento, sì, di Cadorna, che è la cosa che ci interessa di più in questo momento, non l'abbiamo ascoltato tutto, giustamente per motivi di tempo, però ecco, questo audio di Cadorna ha degli aspetti veramente molto molto interessanti. È il famoso bollettino, appunto, emanato proprio nei momenti tragici di quella che poi è passata la storia come la disfatta di Caporetto, la ritirata dell'esercito italiano, che a malapena riuscì comunque a fermare l'avanzata dell'esercito austro-ungarico, e però in quel momento drammaticissimo, appunto, c'è la fissicità di questo avvenimento con il bollettino di Cadorna. Però qual è l'aspetto, diciamo, interessante, del tutto, diciamo, veramente inaspettato? Che oltre al bollettino come è conosciuto, come è scolpito, come è riportato sui testi, c'è una postilla nel sonoro, perché poi il sonoro è stato fatto, appunto, non in quel momento, anche se Cadorna recita come se stesse ancora sul fronte, no? Di guerra. C'è una postilla, infatti c'è uno stacco fra la fine del bollettino, che lo firma proprio il generale Raffaele Cadorna, generale Luigi Cadorna, certo, Raffaele era il papà, era una stirpe, diciamo, militare veramente importante, e continuerà anche dopo Luigi Cadorna. C'è una postilla dove Cadorna rimarca, dice, il successo, rimarca, cioè, già si vede là, l'esercito italiano che sta approntando una resistenza, lo può fare perché lo registra nel 24. Allora adesso ascoltiamo la voce del generale Armando Diaz e il bollettino della vittoria, questa volta pronunciato a Mogliano Veneto il 4 novembre del 18. Bollettino della vittoria, comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12, la guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche, è finita. Bene, Antonella Fischetti, commentiamo questo sonoro, che importanza ha? Nella raccolta di De Angelis di monumentalizzazione della voce, quella di Armando Diaz sarà quella sicuramente che avrà il maggiore successo. Furono laboriose e lunghe i tentativi per incidere la voce, però appunto, come dicevamo, sarà quella che avrà maggiore successo. Già era un monumento in quanto già era scolpito sul marmo del Vittoriano, ma tramite diciamo, questa della voce sarà una esperienza, diciamo, che abbastanza originale di De Angelis. La situazione, diciamo, era talmente diventato monumento che non farà neanche come dire sottolineare il senso, diciamo, la contraddizione che c'è proprio nello stesso bollettino. Per esempio Lucio Villa gli ha fatto notare che nella il frase del bollettino della vittoria, il bollettino della vittoria, cioè questo linguaggio solenne, questo tono solenne, hanno fatto dimenticare quello che è un errore nell'analisi logica e storica nella frase finale del bollettino, dove dice: i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza quelle valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza, perché appunto, come ha notato qualche anno fa Lucio Villari, i resti di un esercito sconfitto non possono aver disceso baldanzosi nessuna valle. Ma la retorica dell'epoca, giustificava anche questi errori, diciamo, logici, sì. E quindi oltre a questo, poi cos'altro si può dire su questo, soprattutto sul valore documentale di questa testimonianza? Perché in realtà poi questo magari è un argomento che approfondiremo nella prossima puntata. Il valore proprio delle fonti orali. Il valore di queste fonti documentali sono, come appunto, come stava dicendo prima Cavallari, è un momento che ancora non c'è la radio. Per quanto riguarda, siamo in periodo fascista, la gran parte della propaganda, in questo subito dopo la guerra, che il concetto anche di propaganda propaganda comincia ad avere un significato in ambito politico più che in ambito, come dire, di religioso, come sì. era stato fino a poco tempo fa. E quindi, diciamo, questo, diciamo, le forme visive erano ancora le forme più popolari per cioè, a livello di propaganda, sì. durante la guerra, le cartoline, i manifesti, tutta questa documentazione. La documentazione sonora di cui stiamo parlando è quella che riesce a un'importanza, perché riesce ad arrivare più immediatamente tramite i dischi anche alla popolazione, diciamo, non colta, diciamo, certo. a tutti quanti italiani. E in questo senso devo dire che è di un'importanza straordinaria. Bene, chiudiamo qui la prima delle due puntate che abbiamo deciso di dedicare alle voci della Grande Guerra. Sabato prossimo ascolteremo due altre testimonianze molto interessanti, sempre in compagnia dei due autori del libro. Grazie e a sabato prossimo. Okay.